Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di uno studio condotto in tandem dall'Università di Oxford e da Deloitte, che è una delle principali società di consulenza strategica. Studio che ha fatto molto discutere in Gran Bretagna e che ha trovato risonanza anche sui nostri quotidiani. Nel report conclusivo di questo studio si legge che il 35% dei lavori negli UK saranno sostituiti dall'automazione nei prossimi 10 o 20 anni. Ne parliamo con Andrea Poggi, che è senior partner e anche responsabile dello Strategic Consulting di Deloitte Italia. Buonasera Poggi. Buonasera dottore, buonasera anche ai suoi ascoltatori. Allora Poggi, io direi intanto quali sono secondo questo studio i lavori più a rischio e anche quali invece sono meno a rischio? Ma guardi, questo studio evidenzia come ci siano delle professioni che per effetto dell'automazione rischiano di scomparire. Sono prevalentemente quelle professioni che hanno una bassa specializzazione, che si caratterizzano per una facile sostituibilità e in particolare in quei settori dove normalmente il salario medio è più contenuto. Il riferimento più specifico è al settore delle vendite, dei trasporti, delle costruzioni, del manufacturing, quei settori dove sostanzialmente gli skill specializzati e di alto profilo sono meno richiesti. Ecco, anche se non si può generalizzare, io dico sempre sarà sempre più facile sostituire il macchinista di un treno che una colf. Ecco, diciamo che a volte le macchine sono molto bravi a fare delle cose che invece per noi sono difficili e viceversa, per cui diciamo non è una regola assoluta forse questa. Non è una regola assoluta, diciamo che alcuni mestieri più tipicamente generalisti in questi settori sono a più alto rischio, con tutte le dovute eccezioni, esattamente come allo stesso tempo quelle professioni che si esercitano in altri settori o che in questi settori sono dotate di maggiori skill, di maggiori capacità tecniche, rappresentano invece aree non solo che sopravvivono, ma che si attendono in crescita. Ecco, cosa dice lo studio invece a proposito dei posti di lavoro che potrebbero crearsi nei prossimi anni? Ma questo è interessante, dottore, perché abbiamo condotto sempre in UK e sempre con la nostra practice locale un'analisi e un'indagine sulle imprese, gli imprenditori UK e londinesi. E da questa indagine emerge invece che loro si aspettano un saldo netto nei prossimi 5 anni di circa 300.000 lavoratori in più. Quindi, da una parte abbiamo il dato scientifico per cui l'automazione comporta erosione di occupazione. Che non è solo qualcosa che riguarda il futuro, si può misurare già oggi, ci sono delle professioni che sono dimezzate in pochi anni, no? Assolutamente, è un dato direi oggettivo. Parallelamente però, le imprese locali in UK e a Londra ritengono che aumenteranno il saldo netto di lavoratori nei prossimi 5 anni, poiché alcune specifiche professioni, in particolare a Londra, in particolare a UK, saranno beneficiate dal processo di innovazione. Tutto quello che è il mondo collegato alla creatività, alla capacità di ragionare in una logica di problem solving, per effetto dell'automazione e dell'innovazione, saranno maggiormente richiesti. Il saldo atteso è un saldo positivo. Proiettandosi su quale tempistica? Perché vede, si dice posti poco specializzati, ma a me sembra che l'automazione stia scalando e risalendo pian piano posizioni verso posti via via più specializzati, anche se magari appunto parte dal basso. E veramente noi possiamo pensare di avere bisogno tra magari 10 o 20 anni in un paese come l'Italia di 25 milioni di artisti super tecnici, designer, esperti di marketing, o non rischiamo davvero di doverci rassegnare a vivere in un mondo a bassa occupazione? Ha completamente ragione. Questa previsione per cui si erodono tutti questi posti di lavoro, diciamo, ad alta automazione e ne vengono fuori, ne crescono quelli che oggi sono più ad alti skill, è in un orizzonte temporale di circa 5 anni. Oltre questi 5 anni, se nulla si fa, la sua previsione è assolutamente non solo corretta ma ragionevolissima. Cioè, se nulla si fa, non è che potranno continuare a crescere occupazioni oggi esistenti ad alto skill tanto da compensare l'erosione che aumenterà e attaccherà anche le professioni ad alto skill. Ma qui sono io che pongo una domanda: quante nuove professioni che oggi non abbiamo nell'elenco delle indagini della Oxford University nasceranno per effetto dell'innovazione? La capacità di questi ultimi due fattori, cioè la crescita dei lavori ad alta specializzazione e la nascita di nuovi mestieri, di compensare il processo di erosione è il punto critico in cui dobbiamo ragionare. Se stiamo, come dire, ad assistere che i robot entrano ovunque, non potremo che avere un trend completamente negativo. Grazie Andrea Poggi. È stato un piacere, grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.